Allora, buongiorno a tutti, buongiorno a chi è qui, a chi ci sta seguendo da casa, a chi è qui per la prima o le prime volte, a chi è qui per, da oltre 30 anni, benvenuto. Ti senti il benvenuto? Benissimo, perché oggi parleremo proprio di questo, parleremo della ricchezza che noi abbiamo nell'essere Chiesa, di appartenerci l'uno all'altro. Vi piace questo tema? Ci ricordiamo, il pastore ha parlato dei quattro pilastri della vita del credente, ispirati chiaramente dalla lettura del libro dei Filippesi, e uno di questi pilastri era proprio quello di valorizzare l'altro. E io credo che possiamo valorizzare l'altro nel momento in cui ci rendiamo conto della benedizione che abbiamo nell'altro, nell'avere l'altro, sì? Quindi oggi leggeremo 5 versetti. Ok? Siamo ancora, insomma, su Filippesi al capitolo 1, e come potete vedere dalle vostre dispense, io vi incoraggio a prendere appunti. Non amate questo nuovo metodo? Io, da insegnante, non vi dico, sono in un mare di giuggiole. Quindi leggeremo Filippesi 1 dal versetto 3 al versetto 8. Lo possiamo leggere insieme anche dallo schermo. Ed è Paolo che parla, dicendo: io ringrazio il mio Dio di tutto il ricordo che ho di voi. E chiaramente si riferisce alla Chiesa dei Filippesi. È sempre in ogni mia preghiera per tutti voi, prego con gioia a motivo della vostra partecipazione al Vangelo, dal primo giorno fino ad ora. E ho questa fiducia che colui che ha cominciato in voi un'opera buona la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Ed è giusto, Paolo aggiunge, è giusto che io mi senta così di tutti voi, perché io vi ho nel cuore, voi tutti, tanto nelle mie catene quanto nella difesa e nella conferma del Vangelo. Siete partecipi con me della grazia. Infatti, Dio mi è testimone come io vi ami tutti quanti di un affetto profondo in Cristo Gesù. Parleremo di questi versi e io prego che Gesù ci possa dare una nuova rivelazione attraverso queste parole che abbiamo appena letto. Signore Gesù, io ti prego che tu possa parlare al nostro cuore. Ti prego, Signore Gesù, che noi possiamo essere dei terreni fertili in modo tale che tu possa portare frutto attraverso la tua parola. Metti concentrazione in noi, metti proprio fame di conoscerti di più, di ponderare su questa verità che hai reso accessibile ad ognuno di noi. Nel nome tuo, Gesù, prego, e tutti quanti insieme diciamo amen. Il 27 giugno del 2022 è successo un miracolo. Chi se lo ricorda? Mi sono sposata. Ormai possiamo dire che tutti quanti avevano perso la speranza, io per prima. Allora i ragazzi, i bambini alle scuole elementari avevano ormai smesso di chiedermi: maestra, ma tu quando è che ti sposi? Non lo chiedevano più, perché si erano stancati di ricevere una risposta piuttosto negativa a quella domanda. Mia madre aveva smesso di mettere le cose da parte per il corredo, addirittura mia nonna si era rassegnata, non mi chiedeva più niente e aveva incominciato a dire: comunque tu stai bene così. E poi invece è venuto lui, Nico, che piano piano, scatta l'applauso, vai, prenditelo tutto. Nico, mio marito, è arrivato lui, l'uomo che in un anno ha praticamente stravolto tutto, si è fatto spazio nel mio cuore e mi ha fatto innamorare, e facendo questo ha dato speranza a tutta l'umanità, a tutta la popolazione, di single e non. Da quando poi mi sono sposata, ovviamente abbiamo incominciato a vivere insieme, e si è aperto un capitolo completamente nuovo, avventuroso, entusiasmante, difficile della nostra vita. Perché abbiamo incominciato a conoscerci, no? E abbiamo incominciato a conoscere le cose belle e anche le cose meno belle, le cose che abbiamo in comune e le tante cose che abbiamo, che non abbiamo in comune. Alcune volte noi ci guardiamo e diciamo: ma è possibile che siamo finiti insieme? Per quanto siamo diversi, lui quando esce di casa non esce senza mettersi la gelatina ai capelli, cioè può andare pure in palestra e lui la gelatina se la deve mettere. Io, quante volte mi avete visto con i capelli che neanche io sapevo da che parte andavano? Questa è una delle tante differenze. Eppure, nella nostra diversità, noi ci amiamo. Nella nostra diversità, noi rimaniamo fedeli l'uno all'altro. Ci accettiamo, ci rispettiamo, chiaramente ci scontriamo, però poi facciamo pace, ci perdoniamo. Nella nostra diversità, noi stiamo crescendo insieme. Perché? Perché quando abbiamo detto sì, quel 27 giugno del 2022, abbiamo detto sì, abbiamo preso un impegno davanti a Dio ed è Dio in quel momento che ci ha resi uno, che ci ha saldati l'uno all'altro. E questo essere uno, tutte le coppie sposate lo sanno benissimo, non è sempre naturale. No, alle volte implica impegno, ma è uno status, è la nostra nuova identità da marito e moglie. E da questo status non si può tornare indietro, non vogliamo tornare indietro, non vogliamo farci derubare o non vogliamo perdere la benedizione che c'è nell'appartenerci l'uno all'altro, nell'essere una sola carne. Tutte le coppie sposate dovrebbero in questo momento dire: bene, siamo d'accordo, diciamo un po' più gioiosi di questo sarebbe bello, però siamo d'accordo. Questo vale anche per la Chiesa. Gesù è il nostro sposo e noi siamo la sua sposa. Gesù è il nostro pastore e noi siamo il suo gregge, tante piccole singole pecore che insieme fanno il suo gregge. Gesù è il capo, è il Signore e noi siamo il suo corpo. Gesù è il Padre e tutti quanti noi nella nostra diversità siamo una sola famiglia. Quando abbiamo arreso la nostra vita a Gesù, Dio, la Bibbia dice, ci ha dato il diritto di essere figli. È il nostro status, è la nostra identità, dalla quale non si può tornare indietro. Non vogliamo tornare indietro, non sarebbe possibile tornare indietro. Noi siamo stati resi figli perché Dio è nostro padre e automaticamente, se Dio è nostro padre e io sono sua figlia, tu chi sei per me? Tu sei mio fratello. Tu sei mia sorella, noi ci apparteniamo ed è una ricchezza meravigliosa. In tutta la nostra diversità, età diverse, gusti diversi, preferenze diverse, non lo so, visioni politiche diverse, modi di affrontare le situazioni diversi, noi tutti quanti, nessuno escluso, siamo stati saldati l'uno all'altro, non da quello che noi abbiamo in comune, perché quello oggi c'è e domani non c'è. Oggi io tifo Inter e domani tifo Juve, per dirvi. È tutto molto passeggero, ma noi siamo stati saldati l'uno all'altro, ci apparteniamo a prescindere da tutto, da Gesù, dal suo sangue. E questo prescinde dalle differenze caratteriali, familiari, economiche. Abbiamo in comune Gesù. Abbiamo in comune il desiderio di servirlo. Abbiamo in comune la partecipazione al Vangelo, come ha scritto Paolo. Abbiamo in comune la missione di predicare il Vangelo, di portare l'amore di Dio dove ancora non è arrivato. Abbiamo in comune il fatto di edificare la sua Chiesa giorno dopo giorno, di servire il Regno, di servire Dio e di servirci l'un l'altro. Questo è quello che abbiamo in comune e non sono cose passeggere. Tutto quello che io ho detto fa parte del corredo della nostra nuova identità in quanto figli di Dio e in quanto fratelli e sorelle. Amen? Non è naturale, perché francamente diciamo che se non fosse per Gesù probabilmente io non conoscerei nessuno di voi. Tantomeno mi sentirei sorella ad ognuno di voi, tantomeno sentirei questo forte senso di appartenenza anche con chi magari non ho ancora avuto modo di conoscere profondamente, ma è Dio che ci ha saldato gli uni agli altri. E questo valeva anche per Paolo, nelle parole che abbiamo appena letto. Paolo, diciamo che scrive questa lettera in generale dei Filippesi, ma in modo particolare il primo capitolo, non per, diciamo, condividere questi pilastri della dottrina sistematica, per quello ha scritto ai Romani, per dirvi, ma questa è una lettera di amore, dove Paolo prende il tempo di scrivere, di mettere nero su bianco quanto fosse innamorato, quanto volesse bene alla Chiesa, lì a Filippi. E con quelli di Filippi Paolo non aveva niente in comune. Lui giudeo, questa Chiesa a Filippi, un mix romani europei. Non c'aveva niente in comune. E infatti, se andate a leggere in Atti, Paolo manco ci voleva andare a Filippi. E poi è stato il Signore proprio a spingerlo ad andare lì. Non avevano nulla in comune, ma avevano tutto. Cioè Gesù, la partecipazione al Vangelo. Tutti si impegnavano, tutti si aiutavano, tutti si sacrificavano per la diffusione del Vangelo. Questa missione in comune li portava a darsi l'uno all'altro, sempre, nei momenti di vittoria e nei momenti di prigionia, letteralmente. E sapete, questo senso di appartenenza, questo amore che si sacrifica, questo amore che ci porta a darci l'uno all'altro, non è un qualcosa che noi riceviamo, che ci cade così dal cielo, che succede. Cioè, l'amore che io provo o dovrei provare per voi che siete la mia famiglia, non è che si è sviluppato da un giorno all'altro. E non è neanche un sentimento che magari uno può sentire, può avere, e l'altro dice, vabbè, io tutto questo amore non lo provo, tutto questo senso di appartenenza non la provo, però va bene lo stesso, sono salvato comunque, vivo la mia relazione con Gesù e questa mi basta e mi avanza. Che siamo salvati comunque va bene, è giusto, ma la nostra vita senza l'un l'altro perderebbe tanto, sarebbe molto più vuota, avrebbe molto meno occasione di essere benedetta e di benedire. Non succede che ci amiamo gli uni gli altri, ma è un comando. È nella volontà di Dio che noi come Chiesa non veniamo qui un giorno alla settimana, la domenica, passiamo questa ora e mezza insieme e poi ci vediamo la settimana prossima. Come se fossimo tante singole unità, ognuna indipendente e autonoma l'una dall'altro. Questo non è la volontà di Dio. Questo non è l'immagine e l'idea che Dio aveva quando ha istituito la Chiesa. Che cosa ha detto Gesù ai discepoli in Giovanni 13:35? Ha detto: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, da come predicate bene, da come cantate bene, da tutti i programmi meravigliosi che domenica dopo domenica mettete insieme, da quanto la Chiesa cresca numericamente anche se nessuno si conosce l'un l'altro. Dice questo? Non nella mia Bibbia, e se leggi bene neanche nella tua. Da questo conosceranno tutti che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. È interessante, ogni volta che chiedo al percorso 1, no, faccio il primo incontro conoscitivo, e allora chiedo ai ragazzi o a chi frequenta, che cosa ti ha colpito di più la prima volta che sei entrato qui in chiesa? E insomma, mi piacerebbe almeno una volta ogni tanto che qualcuno dicesse: no, la predica è stata molto bella, cioè si vede che avete studiato e che c'è stato proprio impegno. Mai nessuno, almeno sono 15 anni, non è mai successo. E non perché le prediche non siano ispirate e impattanti, ma perché la cosa che colpisce di più è proprio questo, l'amore che noi dimostriamo gli uni per gli altri. Qual è stata la cosa che ti ha colpito di più all'inizio, quando sei venuto in chiesa? Probabilmente che qualcuno non ti conosceva ed era così felice di vederti. Probabilmente che qualcuno è venuto e ti ha salutato con un sorriso e ti ha dimostrato amore. Vedete, noi proprio lo viviamo questo verso. È dall'amore che avete gli uni per gli altri che tutti quanti conosceranno che voi siete miei discepoli. E ancora le parole di Paolo in Galati 6 al versetto 10, quando dice, quando sta parlando un po' della nuova vita in Cristo, no? Della nuova identità che noi abbiamo in quanto figli di Dio, dice: finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti. Ma guardate un po', specialmente ai fratelli in fede. Cioè, noi dobbiamo amare tutti, lo sappiamo, dobbiamo fare del bene a tutti, ma qui Paolo ci sta dicendo: per chi ti sta accanto, a destra, a sinistra, per chi fa parte della sposa, per chi è la sposa di Cristo, per chi fa parte del corpo, abbi un occhio di riguardo. Amalo un pochino di più. Perché? Perché ti appartiene. Perché siete una famiglia, non siete solo amici, non siete solo conoscenti, non siete solo partecipanti di un club. Siete fratelli e siete sorelle. Abbi un occhio di riguardo. Abbi grazia nelle relazioni. Perdona un po' di più. Esprimi il tuo amore per chi ti sta accanto e per chi è parte della mia famiglia. Sii pronto all'ascolto. Sii pronto all'incoraggiamento. Questo sta dicendo. E Paolo, nei versi che abbiamo letto, ci dà tre modi, va bene, attraverso i quali noi possiamo vivere di più questo amore fraterno, tre suggerimenti attraverso i quali noi possiamo crescere nella comunione fraterna, svilupparla, viverla di più, perché se abbiamo detto che non ci cade così dal cielo, è implicito dire che è un qualcosa che deve crescere, che noi possiamo applicare e vivere nella nostra vita e far diventare sempre sempre più grande. Che dite? Li vediamo insieme? Siete curiosi? Benissimo, allora il primo punto, e qui vi voglio pronti con la penna, con le dispense, mi raccomando. Allora, il primo punto: preghiamo gli uni per gli altri, sempre e con gioia. Quindi dovete scrivere preghiamo. I versi di riferimento, li voglio leggere da una versione più, diciamo, in lingua corrente, più facili da leggere e capire. Paolo dice: ogni volta che mi ricordo di voi, ringrazio Dio. Quando prego per voi, il mio cuore si riempie di gioia per tutto l'aiuto che mi avete dato nel diffondere il Vangelo, dal primo momento che avete conosciuto Gesù ad oggi. Quindi qua vediamo che Paolo ringrazia, Paolo gioisce quando pensa ai suoi fratelli e quando pensa a ciò che il Vangelo ha prodotto nella vita dei suoi fratelli e delle sue sorelle. E Paolo qui dov'era? L'abbiamo detto tante volte, dove si trovava? In un centro resort. Proprio, davanti alla spiaggia, rilassato, senza problemi, che non poteva fare altro che essere, pensare, diciamo, quanto sono benedetto e quanto voglio bene ai miei fratelli in Cristo. Perché mi sento proprio rilassato in questo momento. Paolo era in prigione, in una prigione romana. Paolo era in catene. E in tutta onestà aveva tutto il diritto sì di pregare, ma di pregare per sé, non tanto di pensare ai fratelli e alle sorelle, che tra l'altro erano la causa per la quale era andata a finire in galera, in prigione. E tante volte noi pensiamo, io devo pregare, per me chi deve pregare? Ma io ho tanti pensieri per la testa e quindi la nostra relazione con Dio, la nostra più che altro vita di preghiera si riduce a un download di tutti i nostri bisogni ed è sempre tra te e Dio, tra Dio e te. Vedete quanto è piccola? Quanto è piccola questa vita di preghiera? No, Paolo qua dice, ogni volta in catene che penso alla mia famiglia in Cristo, sorrido. Il mio cuore si riempie di gioia, perché sono grato che questi fratelli e queste sorelle prima appartenevano al male, al diavolo, e oggi invece appartengono insieme a me a Dio e alla sua famiglia. Paolo dice, ogni volta, sempre. Questo non vuol dire che ci licenziamo dal nostro lavoro, andiamo veramente nel resort e viviamo la nostra vita pregando per i fratelli e le sorelle solamente. Ovviamente non si parla di questo, però si parla, io almeno lo capisco in questi termini, che quando ti viene in mente quella sorella o quel fratello, fai un passo oltre, prega, ringrazia per quel fratello e per quella sorella, che quando in una conversazione a noi a tavola succede sempre, in una conversazione esce fuori il nome di un fratello, di una sorella, di un leader, di chiunque faccia parte della famiglia, della nostra famiglia, facciamo un passo oltre, non parliamo soltanto, ma preghiamo. Ringraziamo per quella vita, presentiamo quella vita a Gesù. Quando Micaela o Elisa ci mandano il messaggino, no? Il messaggino per la catena di preghiera, io su questo sono molto, diciamo, colpevole. Tante volte lo leggo, l'informazione, il punto di preghiera e poi dico, ok, poi prego. Indovinate? Poi non prego. Perché la vita è piena. E invece io ho preso la decisione che non appena leggo quel messaggio, non serve che mi devo sedere, che devo aprire la Bibbia, che devo mettere la musica di lode e adorazione. No, posso pregare in quell'istante e ringraziare per quella vita e benedire quella vita e chiedere l'intervento di Gesù in quella vita, che non è una vita X, è la vita di mio fratello, è la vita di mia sorella. È vero, quando siamo a cena, che ci prendiamo un caffè, o non lo so, cerchiamo di fare quel passo oltre, piuttosto che parlare semplicemente del più e del meno, o anche delle cose spirituali, preghiamo, perché francamente la preghiera è la cosa più intelligente, più efficace e più che porta cambiamento e benedizione nella vita dell'altro. Quindi non perdiamo questa occasione. Paolo dice, io prego per tutti voi. Non solo alcuni, non solo quelli che lo avevano ascoltato, che avevano preso appunti quando stava predicando. Ma per tutti. E quanto ci è facile, Chiesa, parliamoci, beh, sinceramente, quanto ci è facile pregare per le persone che ci vanno a genio, ringraziare più che altro per le persone che ci vanno a genio. Quanto diventa un po' più difficile pregare, ringraziare e invitare Dio ad operare nelle vite di quei fratelli e di quelle sorelle che ci hanno deluso, che ci hanno ferito. Che quando pensiamo a questi fratelli, a queste sorelle, non è che ci viene proprio la gioia nel cuore. Ci viene forse più un senso di rabbia, un risentimento. Eppure in Matteo 5 che cosa disse Gesù? Che voi salutate i vostri fratelli, non fate niente di diverso rispetto ai pubblicani, ma io dico amate i vostri nemici, benedite i vostri nemici. Ora, ovviamente, siccome stiamo parlando della Chiesa, della famiglia di Dio, mi sembra abbastanza inopportuno parlare di nemici, è vero? Però parlare di discordia, no, non è così tanto inopportuno. Parlare di mancanza di perdono, purtroppo non è così tanto inopportuno. Parlare di separazioni o addirittura di tradimenti, purtroppo non è così tanto inopportuno. Ripeto, ci sono persone che ti vengono in mente, che fanno parte della nostra famiglia, che sono tuoi fratelli, che sono tue sorelle, che il ricordo non ti porta gioia, che il ricordo ti porta un senso di amarezza. Solo a me succede. Siete tutti bravi. Io scendo. Succede. O è successo. Bene, io dico che la preghiera è l'antidoto a tutte le separazioni, a tutte le discordie, a tutte le amarezze che ci possono essere tra fratelli e sorelle. Perché è proprio innaturale continuare a criticare un fratello o una sorella, continuare ad avere risentimento per questo fratello o per questa sorella, dopo aver detto Signore grazie, perché tu l'hai salvata. Signore grazie, perché tu la ami. Signore grazie, perché facciamo parte della stessa famiglia, possiamo essere diversi, ma tu ci unisci. Dopo che abbiamo fatto questa preghiera sentita, è molto molto difficile continuare ad avere quel rancore. Non dico che quel rancore o quelle delusioni se ne vanno da un momento all'altro, ma è come la preghiera è come una medicina per le relazioni. Più lo fai e più diventa efficace. Più lo fai e più ne vedi il risultato. Signore, grazie. Grazie perché tu hai incominciato un'opera in questa mia sorella, in questo mio fratello, come l'hai incominciata dentro di me e tu la porterai a termine. Preghiamo, preghiamo con gioia e preghiamo sempre. E questo mi porta al secondo punto, che è questo. Fidiamoci del lavoro di perfezionamento che Dio sta facendo, sta operando in noi e nell'altro. Quando dice, io sono sicuro che Dio ha cominciato in voi la sua opera e vi aiuterà a crescere nella sua grazia fino a completare questa sua opera in voi il giorno in cui Gesù Cristo tornerà. Comincerà, vi aiuterà a crescere. Porterà a compimento. Non vi dà l'idea proprio di un qualcosa che è in divenire? Di un cantiere aperto. A me questo mi fa pensare questo versetto. Un cantiere aperto, dove ancora ancora Dio sta lavorando, sta trasformando, sta facendo crescere, ci sta facendo assomigliare sempre di più a Gesù. Questo significa E nelle nostre relazioni è molto importante che noi ci ricordiamo questo, che come Dio sta lavorando in te e sta smussando quegli angoli, quegli strascichi della vita passata senza Gesù, come Dio sta lavorando in te, sta lavorando anche nell'altro. E quando ci ricordiamo di questo, nelle nostre relazioni tra fratelli e sorelle possiamo avere più grazia, possiamo perdonare di più. O possiamo scegliere, francamente, di non prendercela subito per ogni singola cosa, che non ne vale la pena. Dio ha incominciato un'opera buona in noi, in me, in te, e così la sta portando a termine. E in questo processo ci siamo noi, imperfetti, che cerchiamo, insieme allo Spirito Santo, di essere perfezionati. E questo percorso finirà quando andremo davanti a Gesù. Quindi mettiti comodo, voglio dire, nel sopportare chi ti sta accanto, nell'amarlo nonostante tutto. Gesù ci ha reso, quando Gesù è morto per noi ed è risorto e noi abbiamo reso la nostra vita a Lui, Lui ci ha reso santi. Va bene? In 1 Pietro c'è scritto: voi siete santi perché io sono santo, ok? E non c'è niente che noi possiamo fare per aggiungere qualcosa o per togliere qualcosa a questo status. Cioè noi siamo santi al 100%. Perché? Perché Dio ci vede attraverso la lente della croce, attraverso Gesù. C'è Dio, c'è Gesù e ci siamo noi. E Dio, quando ci guarda, vede l'opera che Gesù ha fatto in noi, una volta e per tutte. E se Dio ci avesse chiamato solo ad essere salvati, la storia si fermerebbe qui. Già a posto, sono santo. Ma Dio ci ha chiamato anche ad assomigliarli. È vero? In Efesini c'è scritto: finché tutti giungiamo allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Questo è il nostro percorso. E lì ci sono tutte le imperfezioni, lì ci sono tutti gli sbagli, lì ci sono tutti i torti che possiamo farci l'un l'altro, ma è perché stiamo in un percorso di santificazione, di perfezionamento. Io il 27 giugno mi sono sposata. Il 27 giugno sono diventata la moglie di Nico al 100%. Ma è dal 27 giugno che sto imparando ad essere una moglie. E che il 10% delle volte ci riesco, il 90% sto imparando. Il 14 agosto 1986 papà è diventato mio padre. E niente può togliere, nulla può essere tolto da questa identità. È mio padre al 100%, da 36 anni ad oggi. Ma è da 36 anni che papà, stagione dopo stagione, cambiamento dopo cambiamento, perfeziona il suo essere mio padre. Quando ho accettato Gesù, ho iniziato questo percorso. È lo stesso percorso l'hai incominciato tu. Ci siamo tutti insieme. Per questo possiamo avere grazia l'uno nei confronti dell'altro. Perché come sbaglio io, può sbagliare anche chi mi sta di fronte. Perché nessuno è perfetto. E l'opera è di Dio. Dio ha incominciato un'opera e Dio la porta a termine. Da Dio incomincia e da Dio finisce tutto. Quindi possiamo essere certi che Dio è fedele e quell'opera buona che ha incominciato in te e in me, Lui la porterà a termine. Genitori, nei vostri figli, adolescenti, bambini o adulti che siano, Dio ha incominciato un'opera ed è Lui che la porterà a termine. Abbiate grazia, abbiate fiducia, abbiate pazienza. Non cercate di mettervi al posto di Dio, perché quello che Lui può fare, mamma e papà non possono farlo. Possiamo pregare, ma rilassatevi in Gesù. mariti, mogli. Ricordiamoci che stiamo tutti quanti in questo percorso. Aspettiamoci, rispettiamoci. Abbiamo grazia. Fratelli, sorelle, amici, noi tutti, ricordiamoci che non vale sempre la pena prendersela, va bene? Non vale sempre la pena legarsela al dito, perché questi sono tutti i tentativi che il diavolo ci mette dinanzi per farci derubare della bellezza e della ricchezza che c'è nell'unione, nell'unità e nella comunione fraterna. Abbi grazia. Prima di giudicare, prima di prendertela, prima di, non so, reagire in un modo che Dio non farebbe, fermati e pensa. Quante volte ho sbagliato io? Siamo nello stesso percorso. Io voglio grazia da Dio, voglio grazia dall'altro, altrettanta grazia posso dare. Ci deluderemo. Cioè, dobbiamo abbassare un attimino anche le nostre aspettative. Ok, perché il pastore molto probabilmente ad un certo punto farà qualcosa che non ti andrà a genio. Io ti deluderò, chi ti sta accanto ti ferirà ad un certo punto. E questa non è una giustificazione, ma io voglio darci una prospettiva più grande. In tal modo noi non rimarremo bloccati nella delusione, bloccati da quella ferita, ma avremo la chiave per uscirne, per superarlo. Perché come sbaglio io, sbaglia anche chi mi sta accanto. Vi aiuta questo? Terzo punto, e con questo voglio concludere. Il numero tre, esprimiamo, questo mi sta particolarmente a cuore, esprimiamo l'affetto profondo che proviamo gli uni per gli altri. Paolo dice: è giusto, è naturale che io provi questi sentimenti nei vostri confronti. Cioè, non vuole chiedere scusa Paolo, è molto diretto. È giusto che io mi senta così, perché voi avete un posto particolare, un posto speciale nel mio cuore. E poi nel versetto 8 dice: Dio solo sa quanto è profondo il mio amore per voi e quanto desidero rivedervi con lo stesso affetto di Gesù Cristo. Ve l'ho detto prima, questa è una lettera d'amore, dove Paolo ci tiene a mettere nero su bianco il fatto che lui voglia bene profondamente ai suoi fratelli e alle sue sorelle. E sapete, questo era abbastanza rivoluzionario, perché siamo nel primo secolo. Paolo, un uomo che in accordo con la cultura in cui si viveva, cioè un uomo non poteva parlare di queste cose, non poteva parlare di sentimenti, l'uomo doveva essere tutto d'un pezzo, mica poteva esprimere così, in maniera così schietta, l'amore, mica poteva esprimersi con queste parole così dolci, così edificanti, così amorose nei confronti dei suoi fratelli e delle sue sorelle. Paolo era, insomma, Paolo, contieniti, le persone avrebbero detto, dai, coraggio. Eppure Paolo qui vuole metterlo nero su bianco, perché sa quanto è importante non solo sentire l'amore nei confronti l'uno per l'uno dell'altro, ma anche esprimerlo. Esprimerlo sì a gesti, ma esprimerlo anche con parole. Tante volte usiamo la nostra lingua in maniera inappropriata. Tanto vale che impariamo ad usare la nostra lingua per amare, per esprimere affetto. E tante volte ho pensato che siamo rimasti un po' fermi al primo secolo. Anche la nostra cultura non ci incoraggia tanto ad amare verbalmente. Non esprimiamo il nostro affetto con così tanta naturalezza, perché forse quello può essere preso come sinonimo di debolezza. Oppure non riusciamo ad incoraggiare, ad amare le persone con le parole, perché magari nessuno l'ha fatto con noi. E qui non ci sentiamo un po' a disagio. Paolo qui ci sta dando un esempio un modello da seguire. Usiamo le nostre parole per edificarci, per amarci. Paolo qui dice: Chiesa, ma io ti amo così tanto. E io questa mattina voglio dirvi: Chiesa, famiglia mia, chi conosco di più, chi conosco di meno, io vi amo così tanto. E avete un posto così speciale nel mio cuore. E io non potrei, veramente, cioè nella preparazione è stato molto, diciamo, emotiva questo momento, perché mi sono fermata e ho cominciato a pensare a come sarebbe stata la mia vita senza di voi. E sarebbe stata molto vuota. Sarebbe stata molto povera. Perché io proprio vi voglio bene e sento che appartengo ad ognuno di voi e sento che ognuno di voi mi appartiene. Quando penso al pastore Pinuccio e Sofia, io vi voglio un sacco di bene. Siete dei miei, siete i miei secondi genitori. Quando penso a Milena e Pinuccio, e mi sono ricordata quando ero piccola, arrivavo a casa e si sentiva l'odore, il profumo di zia Milena. E poi io subito andavo nella credenza e aprivo e c'era il pacco delle merendine della Kinder. Perché mamma ci comprava quelle dell'Eurospin. E invece zia Milena ci portava quelli della Kinder. Vi voglio bene. Avete sempre fatto parte della mia vita. E quando vi chiamo zii è perché veramente mi sento che appartengo a voi. E vi ringrazio per la vostra fedeltà, per il vostro esserci in tempo e fuori di tempo, per la fedeltà tu che hai avuto zia nel pregare per la conversione di tuo marito e quella che stai avendo nel pregare per la conversione del resto della famiglia. Quando penso ad Anna Cassano, che ogni domenica viene e mi guarda la pancia e mi dice: beh, e io dico: no, sono solo ingrassata un po', non ancora, non ti preoccupare, io sto pregando. È così importante dirselo, perché fa bene e anche noi possiamo fare bene. Quindi non perdiamo questa occasione. E io potrei veramente nominare ognuno di voi, anche chi conosco di meno, perché in comune abbiamo il fatto che siamo qui e che c'è Gesù e che vogliamo che il mondo si converta. Quindi tutti vi potrei nominare. Non lo faccio, perché è anche un po' tardi, però vorrei fare questa cosa. Vorrei che ci alzassimo in piedi. E mentre ci sarà questo sottofondo da parte della band, vorrei che noi prendessimo un pochino di tempo per mettere in pratica quello che abbiamo appena ascoltato. Vai da qualcuno, chi ti sta vicino, o se senti nel cuore di andare a qualcuno di preciso, e ringrazialo, esprimi il tuo amore, prega, fai quello che Paolo ha fatto nel primo secolo e noi oggi, il 30 aprile 2023, vogliamo continuare a fare, perché questa è la volontà di Dio, perché questo ci rende famiglia. Quando ero piccola, papà faceva tipo una filastrocca. Allora, lui diceva le prime parole e noi tre figli rispondevamo. E diceva: noi siamo una, e noi rispondevamo: famiglia. E ci vogliamo bene e facciamo la differenza. E ce lo ripeteva sempre, perché questo doveva entrare dentro di noi. Perché noi dovevamo sapere che eravamo una famiglia, che ci volevamo bene e che insieme avremmo fatto la differenza. Questo siamo noi. Noi siamo una famiglia. Noi ci vogliamo bene. Impariamo a dircelo, perché questo farà la differenza. Amen? Sì? Vi piace? È una cosa bella? È un esercizio bello che possiamo fare? Allora andiamo, l'un l'altro, brevemente, e poi il pastore verrà per concludere questo momento. Facciamolo, chiesa.